Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. D'Artagnan si mosse seguendo la trincea con due guardie del re e due soldati dietro. Giunsero così, proteggendosi con i ripari, a un centinaio di passi dal bastione. Lì D'Artagnan, voltatosi, vide che i due soldati erano scomparsi. Credette che, avendo avuto paura, fossero rimasti indietro e continuò ad avanzare. Alla svolta si trovarono a una sessantina di passi dal bastione. Non si vedeva nessuno e il posto pareva abbandonato. I tre spericolati stavano deliberando se proseguire o no, quando a un tratto una cortina di fumo avvolse la gigantesca massa di pietra e una dozzina di pallottole fischiarono intorno a D'Artagnan e ai suoi due compagni. Ora sapevano ciò che volevano sapere. Il bastione era sorvegliato. Una sosta più lunga in quel luogo pericoloso sarebbe perciò stata un'inutile imprudenza. D'Artagnan e le due guardie voltarono la schiena e iniziarono una ritirata che somigliava a una fuga. Mentre giungevano all'angolo della trincea che serviva da riparo, una delle guardie stramazzò. Una pallottola gli aveva trapassato il petto. L'altro, rimasto incolume, continuò la corsa verso l'accampamento. D'Artagnan non volle abbandonare a quel modo il compagno e si chinò su di lui per sollevarlo e aiutarlo a raggiungere le linee, ma in quel momento partirono due fucilate. Una pallottola fracassò la testa della guardia già ferita, l'altra venne a schiacciarsi sulla roccia dopo aver sfiorato a due pollici di distanza D'Artagnan. Il giovane si girò bruscamente perché quei colpi non potevano provenire dal bastione coperto dall'angolo della trincea. Il pensiero dei due soldati che l'avevano piantato in asso gli tornò in mente ricordandogli i sicari di due giorni prima. Stavolta, pertanto, decise di sincerarsene e si lasciò cadere a corpo morto sopra il camerata. Scorse subito due teste spuntare da una fortificazione abbandonata a una trentina di passi di lì. Erano quelle dei due soldati. D'Artagnan non si era ingannato, quei due uomini l'avevano seguito soltanto per ammazzarlo, sperando che la morte del giovane sarebbe stata imputata al nemico. Però, siccome poteva essere solamente ferito e denunciare il misfatto, i due si avvicinarono per finirlo. Per fortuna, ingannati dall'astuzia di D'Artagnan, trascurarono di ricaricare i fucili. Quando furono a una decina di passi da lui, D'Artagnan, che nel cadere si era preoccupato di non mollare la spada, si rizzò di colpo ed un balzo fu loro sopra. Gli assassini compresero che, fuggendo dalla parte dell'accampamento senza avere ucciso il loro uomo, sarebbero stati accusati da lui. Quindi il loro primo pensiero fu di passare al nemico. Uno dei due afferrò il fucile per la canna e se ne servì a guisa di mazza. Vibrò un colpo tremendo a D'Artagnan, che lo evitò buttandosi di lato, ma lasciando con quel gesto libero il passo al bandito, che si lanciò subito verso il bastione. I roccellesi di guardia, però, ignorando con quali intenzioni colui si dirigesse verso di loro, gli spararono addosso e quegli cadde colpito da una pallottola che gli fracassò la spalla. Intanto D'Artagnan si era buttato sul secondo soldato, attaccandolo con la spada. La lotta fu breve, il miserabile non aveva per difendersi che l'archibugio scarico. La spada scivolò sulla canna dell'arma mai inutile e trapassò la coscia dell'assassino, che cadde a terra. Subito D'Artagnan gli puntò il ferro alla gola. «Non uccidetemi!» esclamò il bandito. «Pietà, pietà, signor ufficiale!» E vi dirò tutto. Il tuo segreto almeno merita che io ti risparmi la vita, chiese il giovane trattenendo il braccio. Sì, se pensate che la vita valga qualcosa quando si hanno 22 anni come voi e si può arrivare a tutto, bello e coraggioso come siete. «Miserabile», disse D'Artagnan. «Su, di, svelto, chi ti ha incaricato di assassinarmi? Una donna che non conosco, ma che chiamavano Milady. Ma se tu non conosci quella donna, come mai ne sai il nome? La conosceva il mio compagno, la chiamava così. Ha avuto a che fare con lui e non con me. Anzi, lui ha in tasca una lettera di quella persona che per voi deve avere molta importanza, a quanto gli ho sentito dire». Con passo agile, l'occhio allerta, osservando le mosse del nemico, riparandosi dietro ogni asperità del terreno, D'Artagnan raggiunse il secondo soldato. Poteva ottenere lo scopo in due modi: frugarlo sul posto, oppure trascinarlo via facendosi scudo del corpo e frugarlo nella trincea. D'Artagnan preferì il secondo modo. Si caricò l'assassino sulle spalle nello stesso momento in cui il nemico faceva fuoco. Una leggera scossa, il rumore sordo di tre pallottole che penetravano nelle carni, un ultimo grido, un fremito d'agonia provarono a D'Artagnan che quello che aveva voluto assassinarlo ora gli salvava la vita. D'Artagnan raggiunse la trincea e buttò il cadavere vicino al ferito, anche lui pallido come un morto. Subito cominciò l'inventario: un portafogli di cuoio, una borsa con dentro una parte della somma che il sicario aveva ricevuto, un bossolo e dei dadi formavano l'eredità del morto. Egli lasciò il bossolo e i dadi dove erano caduti, gettò la borsa al ferito e aprì di furia il portafogli. In mezzo ad alcune carte senza importanza trovò la seguente lettera che era andato a cercare al rischio della vita. «Poiché avete perduto la traccia di quella donna che ora è al sicuro in quel convento dove non avreste mai dovuto lasciarla arrivare, cercate almeno di non farvi sfuggire l'uomo, altrimenti sapete che ho il braccio lungo e che paghereste cari i 100 luigi che vi ho dati». Nessuna firma. Tuttavia era evidente che la lettera proveniva da Milady, ragion per cui D'Artagnan la conservò come una prova e, al sicuro dietro l'angolo della trincea, cominciò a interrogare il ferito. Questi confessò che insieme al compagno, quello stesso che era stato ucciso, si era assunto l'incarico di rapire una giovane che doveva uscire da Parigi per la barriera di La Villette. Ma, fermatisi a bere in un'osteria, non avevano sorvegliato la carrozza per una decina di minuti. «Ma della donna cosa ne avreste fatto?» chiese angosciato D'Artagnan. «E dovevamo portarla in un palazzo di Place Royale», disse il ferito. «Ah sì?» mormorò D'Artagnan. «È così, da Milady in persona». In quel momento il giovane capì, rabbrividendo, quale sete terribile di vendetta spingesse quella donna ad uccidere lui e quelli che lo amavano, e quanto ella fosse informata degli affari di corte, giacché aveva scoperto ogni cosa. Certamente doveva quelle informazioni al cardinale. Ma oltre a questo, con vero senso di gioia, capì che la regina aveva finito con lo scoprire la prigione dove la povera Madame Bonacieux espiava la sua fedeltà e l'aveva liberata. Si spiegavano così la lettera che gli aveva ricevuta dalla giovane donna e il passaggio di lei sulla strada di Chaillot, passaggio che rassomigliava a un'apparizione. Come aveva previsto Athos, era possibile ritrovare Madame Bonacieux, e un convento non era inespugnabile. Questo pensiero finì col rendergli l'animo clemente. Si volse verso il ferito che ne seguiva ansioso le diverse espressioni del volto e, tendendogli il braccio, gli disse: «Su, non voglio abbandonarti così. Appoggiati a me e torniamo all'accampamento». Dopo le notizie quasi disperate sulla sorte del re, le voci sulla sua convalescenza cominciarono a diffondersi al campo. e siccome egli aveva gran premura di giungere di persona all'assedio, si diceva che non appena avesse potuto montare a cavallo, si sarebbe rimesso in viaggio. Nel frattempo, il fratello del re, sapendo che da un giorno all'altro sarebbe stato sostituito o dal duca di Angoulême, o da Bassompierre, o da Schomberg, che si disputavano il comando, faceva poco o niente, perdeva le giornate in tentennamenti, né osava rischiare qualche azione ardita per scacciare gli inglesi dall'isola di Re, dove essi continuavano ad assediare la cittadella Saint-Martin e il forte di La Prée, mentre d'accanto loro i francesi assediavano La Rochelle. D'Artagnan, l'abbiamo detto, si era calmato, come sempre capita dopo che un pericolo è passato e sembra scomparso. Non gli restava che una preoccupazione, quella di non avere notizie dei suoi amici. Ma una mattina, ai primi di novembre, tutto gli fu spiegato da una lettera datata da Villeroy. «Monsieur d'Artagnan, Monsieur Porthos, Athos e Aramis, dopo aver fatto da me una bella scorpacciata e dopo essersi divertiti un mondo, hanno scatenato una tale gazzarra che il prevosto del castello, persona assai severa, li ha consegnati per alcuni giorni. Ma io eseguo gli ordini che mi avevano dato, e cioè di inviarvi 12 bottiglie del mio vino dell'Angiò, da loro molto apprezzato. Desiderano che voi beviate alla loro salute con il loro vino favorito. Così ho fatto e sono, signore, con grande rispetto, il vostro umilissimo e obbedientissimo servitore, Godot, locandiere dei signori moschettieri». «Meno male!» esclamò D'Artagnan. «Pensano a me quando se la spassano, come io pensavo a loro quando mi annoiavo. Certo, verrò alla loro salute e di gran cuore, ma non verrò da solo». E D'Artagnan corse da due guardie, con le quali aveva stretto più amicizia che con le altre, per invitarle a bere con lui il delizioso vinello dell'Angiò, arrivato fresco fresco da Villeroy. Una delle due guardie aveva già un invito per quella sera e l'altra per l'indomani, sicché la riunione fu fissata di lì a due giorni. Rientrando, D'Artagnan mandò le 12 bottiglie alla cantina delle guardie con la raccomandazione di custodirgliele con cura. Poi, il giorno della festa, siccome il pranzo era fissato per mezzogiorno, D'Artagnan, fin dalle 9, mandò Planchet per tutti i preparativi. Giunta l'ora del banchetto, arrivarono i due commensali, presero posto e sulla tavola si allinearono le portate. Planchet serviva con il tovagliolo sul braccio. Fourreau, un domestico, stappava le bottiglie e Brismont, così si chiamava il convalescente, travasava in caraffe di vetro il vino che per le scosse del viaggio sembrava avere fatto deposito. Di questo vino, la prima bottiglia aveva il fondo un po' torbido, perciò Brismont versò la feccia in un bicchiere e D'Artagnan gli permise di berla, perché il poveraccio non si sentiva ancora granché in forze. Dopo aver mangiato la minestra, i convitati stavano per portare all'ambra il primo bicchiere, quando d'un tratto il cannone rimbombò al forte Louis e al forte Neuf. Subito le guardie, credendo trattarsi di un attacco imprevisto sia da parte degli assediati sia degli inglesi, afferrarono le spade. D'Artagnan, non meno pronto, li imitò e tutti e tre uscirono di corsa per raggiungere i loro posti. Ma non appena fuori della cantina, tutta la loro attenzione si rivolse alla causa di quello strepito, le grida «Viva il re! Viva il cardinale!» echeggiavano da ogni parte e i tamburi rullavano per ogni dove. Infatti il re, impaziente come dicemmo, aveva compiuto due tappe in una e stava arrivando con tutto il suo seguito e con un rinforzo di 10.000 uomini. Lo precedevano e lo seguivano i suoi moschettieri. D'Artagnan, allineato con la sua compagnia, salutò con gesto espressivo gli amici che gli risposero con lo sguardo, come pure Monsieur de Tréville, che lo riconobbe subito. Terminata la cerimonia delle accoglienze, ben presto i quattro amici si ritrovarono nelle braccia l'uno dell'altro. «Per Dio!» esclamò D'Artagnan. «Non potevate arrivare in un momento migliore, e le carni non avranno ancora avuto tempo di raffreddarsi. Né vero, signori?» soggiunse il giovanotto volgendosi alle due guardie e presentandole agli amici. «Ah, ah! A quanto pare stiamo banchettando!» disse Porthos. «Spero», aggiunse Aramis, «che non ci siano donne al vostro festino, e c'è del vino bevibile nella vostra bicocca?» chiese Athos. «Ma per dinci, c'è il vostro, caro amico!» rispose D'Artagnan. «Il nostro?» fece Athos stupito. «Ma sì, quello che mi avete mandato!» «Vi abbiamo mandato del vino?» «Il vino mi è stato mandato da parte vostra!» «Da parte nostra!» dissero i tre moschettieri. «Siete stato voi, Aramis, a inviare il vino?» «No.» «E voi, Porthos?» «No.» «E voi, Athos?» «No.» «Se non siete voi, è il vostro locandiere.» «Il nostro locandiere?» «Eh sì, il vostro locandiere, Godot, locandiere dei moschettieri.» «Perbacco, venga di dove vuole, non importa», disse Porthos. «Assaggiamolo, e se è buono, beviamolo.» «Niente affatto», ribatté Athos. «Non beviamo il vino di provenienza sconosciuta.» «Avete ragione, Athos», convenne D'Artagnan. «Nessuno di voi ha incaricato il locandiere Godot di spedirmi del vino?» «No.» «E tuttavia ve ne ha mandato da parte nostra.» D'Artagnan impallidì e un tremito convulso gli scosse tutte le membra. «Mi spaventi», disse Athos, che nelle grandi occasioni gli dava del tu. «Che cosa è successo?» «Corriamo! Corriamo, amici!» esclamò D'Artagnan. «Un sospetto orrendo mi attraversa la mente. Sarebbe un'altra vendetta di quella donna.» Athos impallidì a sua volta. D'Artagnan si slanciò verso la cantina, seguito dai tre moschettieri e dalle due guardie. Entrando nella sala da pranzo, per prima cosa la vista di D'Artagnan cadde su Brismont, steso a terra, che si contorceva fra atroci spasimi. Planchet e Fourreau, pallidi come cadaveri, cercavano di portargli soccorso, ma era evidente che qualsiasi soccorso era vano. Tutti i lineamenti del moribondo si contraevano nell'agonia. «Ah!» esclamò scorgendo D'Artagnan. «Ah! È orribile! Sembravate farmi un favore e mi avvelenate.» «Io?» esclamò D'Artagnan. «Io infelice! Che dici mai?» «Dico che siete stato voi a darmi quel vino. Dico che siete stato voi a dirmi di berlo. Dico che avete voluto vendicarvi di me. Dico che è orribile.» «No, Brismont», disse D'Artagnan. «Non credetelo, vi giuro, vi giuro. Oh, ma Dio esiste. Dio vi punirà. Mio Dio, che lui soffra un giorno quello che soffro io.» «Sul Vangelo!» esclamò D'Artagnan precipitandosi sul moribondo. «Vi giuro che ignoravo che quel vino fosse avvelenato e che stavo per berlo come voi.» «Non vi credo», disse il soldato e spirò in un crescendo di torture.